sono spaziale, speciale, eccezionale, se tu sei tra. Ai noi, siamo giunti a domenica, setup finisce e con lui anche le prime occasioni delle puntate speciali del Coxo. E va bene, però c'è molta gioia perché la programmazione è lunga e io ho un co-conduttore coxico occasionale veramente, veramente, veramente, che se ci ascoltate su Radio Città Fujiko in FM il giovedì, l'avete sentito anche dopo di noi, che fa la vera radio dopo le nostre divagazioni. È con noi Stefano in veste W, migliore. Ciao Fedra, grazie dell'ospitalità, sono molto emozionato anch'io, non demoralizzarti troppo che è finito setup, non tutto è per sempre, però questo resterà sicuramente, questi pomeriggi resteranno, grazie per l'ospitalità. Resteranno soprattutto perché sono caricati sul profilo archive di Coxo Spaziale e sono fruibili dal link che da domani, anche questo come le altre dei giorni prima, sono state pubblicate oggi e ieri, su www.coxospaziale.blogspot.com, che è link che troverete anche nella home page di Radio Città Fujiko, partner di setup quarta edizione 2016. E insomma, fra l'altro qua, non so se hai visto, ma c'è anche l'installazione degli strumenti radio con cui Radio Città Fujiko 40 anni fa, ovvero nello stesso momento in cui nascevo io e vaggivo anch'io, cominciava anche lei ad esprimersi attraverso quelle attrezzature. Fra l'altro nel sito descritte dal poeta Gabriele Via, che ne ha fatto una descrizione veramente da leggere. Allora, ritorniamo, cominciamo ad entrare nel vivo della questione. Stefano Migliore è qui perché parleremo anche di cinema e abbiamo colto l'occasione di invitare, e fortunatamente hanno accettato, e le protagoniste, poi ci sono anche degli uomini che forse arrivano tra un po', però per il momento abbiamo tutte voci femminili, del talk della seconda serata di Setup. E quindi abbiamo, rileggo il titolo del talk: Da cuore di pietra a lavoro ad arte, un progetto di arte pubblica, un libro e un film documentario. Quindi diciamo, ieri con un altro ospite si parlava di opera wagneriana, c'è tutto qui dentro. E quindi passiamo a presentare le nostre ospiti. Nell'ordine da Ethnos Film abbiamo Elisa Mereghetti. Così intanto si collega, si memorizza il nome alla voce. Okay. Poi continuando, Mili Romano, curatrice e ideatrice del progetto Cuore di Pietra a Pianoro da ormai 10 anni. E Mona Lisa Tina, artista e performer, partecipante al progetto Cuore di Pietra e film lavoro d'arte. Puoi cominciare tu ad aprire questo dialogo? Passo la palla a Stefano. Volentieri, grazie mille. Questo è un progetto molto interessante, molto sfaccettato. Si mettono in comunicazione non solo quei mondi che sono principalmente afferenti, quasi esclusivamente, al mondo dell'arte, le arti performative, l'arte cinematografica. È un progetto che coinvolge anche una dimensione più intima, più personale, anche più quotidiana delle persone. Si parla di lavoro e si parla per la precisione della fascinazione industriale, un tema che anche è stato affrontato diverse volte dal cinema, ma che è sempre interessante da sviluppare ulteriormente. Allora partirei dall'inizio di questo progetto, che nasce come un progetto di arte pubblica, per cui partirei appunto da Mili con Cuore di Pietra, e mi interesserebbe sapere qual è stato, diciamo, lo stimolo principale che ha fatto nascere questo progetto e soprattutto lo stimolo che lo ha portato a farlo diventare un progetto di arte pubblica. Beh, è nato come un progetto di arte pubblica. Dal 2005 Cuore di Pietra è nato come un'azione mia da artista, un'azione che poteva rimanere individuale, morire lì, ed era un manifesto che io avevo creato e poi affisso in tutti gli spazi pubblicitari delle strade da Rastignano a Pianoro Vecchio, e poi un manifesto che rifletteva, nato dalle mie passeggiate a Pianoro e diciamo dai miei esperimenti così di video e di fotografia, ed era una sorta di non dico protesta, ma insomma una sorta di riflessione poetico-politica che io facevo su uno spazio che stava cambiando. Il centro di Pianoro Nuovo veniva messo a dura prova perché subiva degli abbattimenti attraverso un piano di riqualificazione urbana che prevedeva proprio l'abbattimento del centro del paese, nato immediatamente dopo la guerra, che erano le case di ACP, le prime case del paese, insieme alla chiesa, alla scuola e al comune. Quindi diciamo che questo mio primo gesto di riflessione su un paese che cambiava, come cambiano tutte le nostre città, città e metropoli, piccole e non piccole, e appunto attraverso un gesto d'artista che poteva rimanere lettera morta, cioè rimanere un bellissimo happening e poi finire lì. Invece io avevo distribuito davanti alle porte delle case, ve lo spiego in breve perché credo che sia una base fondamentale per capire poi quello che è accaduto dopo e anche il metodo. Avevo lasciato questi manifesti davanti alle porte degli abitanti che ancora abitavano in quelle case in attesa di trasferimento, chiedendo loro in un tal giorno di esporre alle finestre il manifesto qualora desiderassero cominciare con me una storia di narrazione, di memorie, in modo tale che la memoria di quelle case che stavano sparendo non finisse del tutto, perché quello che accade nelle nostre città è proprio questo, che spariscono interi quartieri, ed è normale che sia così, perché avviene così a Pianoro, come avviene a New York, come avviene a Londra, a Milano e a Roma. E il destino dei nostri quartieri periferici e delle nostre città. Ecco, con i palazzi se ne vanno via memorie, no? E il più delle volte l'oblio è la cosa che segna il nostro presente, il nostro modo di vivere la città. In questa maniera c'era quindi questo tentativo di aprirsi ad una costruzione di una memoria futura e collettiva, corale. E così è stato. Il giorno in cui io avevo invitato tutti gli abitanti ad esporre questi manifesti, è stata una roba emozionante, cioè io ancora, se me lo ricordo, mi viene la pelle d'oca, perché da quel momento lì non ci siamo più fermati, iniziando prima con pochissimi mezzi, pochissimi soldi, pochissimi, tra l'altro con grandi difficoltà anche di dialogo con le istituzioni. Infatti anche questo era una cosa che mi interessava chiederti, magari su quella che è stata l'interazione, la reazione, la partecipazione da un punto di vista artistico. Abbiamo Mona Lisa, Tina, che magari ci può raccontare anche più da vicino la sua esperienza, ma la risposta sia delle istituzioni ma anche della collettività, qual è stata rispetto a questo progetto? La risposta della collettività, cioè degli abitanti, è stata immediata e calorosissima e sempre più forte, sempre più intensa. Io ho lavorato nel corso degli anni con le scuole del paese, con il centro diurno per anziani, che peraltro è uno spazio che è nato nelle nuove case, anche un pochino anche per suggerimento di Cuore di Pietra, perché mi ricordo che andammo a fare un giro con l'allora sindaco, che era Simonetta Saliera, questo dopo qualche anno, però quando le case erano già ricostruite alcune, e c'era questa sala condominiale e si pensava, lei mi diceva cosa ne potremmo fare, e più che farne sala condominiale io dissi sarebbe molto bello, visto che stanno sparendo quelle case che avevano dei rituali anche antropologici molto comunicativi, perché erano case di 3 piani, 8 appartamenti in cui le persone lasciavano le chiavi nella serratura fuori perché si aiutavano a vicenda, no? Era un modo, sparivano con quelle case dei modi di vita, il linguaggio spariva, no? E la cosa molto bella è stata anche la possibilità per gli artisti di lavorare a strettissimo contatto con gli abitanti, entrando quindi, cancellando il confine, diciamo, della individualità, dell'intimo, no? Anche con le classi delle scuole, non abbiamo mai agito portando gli anziani a scuola, ma facendo il contrario, facendo uscire le classi. Cuore di Pietra ha sempre lavorato nel corso degli anni cercando di cancellare i confini che sono molto rigidi, che sono fra il privato e il pubblico, fra l'istituzionale e il non istituzionale, fra l'arte da galleria e l'arte della strada. Ecco, Cuore di Pietra ha sempre lavorato in questi anni, quindi sono 10 anni che è attivo il progetto, e cercando di attivare il più possibile una partecipazione che non conoscesse né alto né, cioè non conoscesse né alto né basso, ma che fosse nell'assoluta comunicazione, no, delle... Volete chiedermi qualcosa? Altro che Cuore di Pietra, cioè forse sì, la pietra del vostro sì. Cuore è una pietra miliare, allora, anche da un punto di vista di intervento urbano e artistico. È un progetto assolutamente innovativo, seppur in una sua forma classica, tra virgolette. Sono iniziative, sono forme di iniziative, forme di cooperazione, di collaborazione, che oggi faticano a trovare i loro spazi, ma questa è una bellissima dimostrazione di come non sia la regola. Io ero curiosa rispetto al tema che sarà sollevato prima, l'istituzione, ok, la partecipazione dal basso e nell'orizzontale, ok, le cime istituzionali probabilmente sono un pochino meno agili nell'entrare in dialogo con queste nuove forme. È stata una cosa molto, molto difficile, ma l'immediatezza dell'azione, il fatto stesso che fossero gli abitanti di intere palazzine che avessero messo fuori il manifesto e che quindi hanno praticamente obbligato poi in quel momento le istituzioni a scendere a dialogo. Cioè il dialogo è stato inevitabile, è stato poi un dialogo che è cresciuto e che ha portato dei cambiamenti progressivi, dei grandi passi avanti e molti passi indietro delle volte, perché come ben sapete molte volte quando cambia la giunta bisogna ricominciare da capo. Ecco, adesso posso dire che dopo 10 anni mi sembra che la cosa si sia sedimentata anche nella consapevolezza di chi, diciamo, delle istituzioni, no? del comune, eccetera. Ma la cosa fondamentale adesso non stiamo molto a parlare soltanto di Cuore di Pietra, perché qui stiamo a parlare anche del film, poi vi racconto cosa, ma la cosa fondamentale è questa, che dopo 10 anni di un lavoro veramente molto lungo, articolato, che ha visto interventi temporanei e interventi permanenti, no? E ha visto tantissimi artisti, da Zimmer, fra i Cuoche e Corsello, intervenire prima nel periodo dei cantieri e quindi della trasformazione, e poi invece lasciare dei segni come Sandrine Nicoletta, Laura Bisotti e Simona Paladino, Pippo Sciorra con me e Sabrina Torelli, tantissimi, insomma, Andrea Sala, Alessandra Andrini, Zimmerfrei, tanti nel corso degli anni, Eva Marisaldi, Emanuela Ascari, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, la cosa fondamentale è che adesso, dopo 10 anni di questo lavoro, nel paese si è creato un vero e proprio percorso di arte, di segni piccoli e grandi, di arte partecipativa, possiamo dirlo. A mio avviso, credo, non voglio peccare di modestia, ma insomma, cioè, fra gli unici, mi sembra, in Italia, nati in maniera così intensa. Cioè ogni segno di Cuore di Pietra ha un senso, ha una memoria, è un racconto e fa parte di questo grande racconto corale. E allora andrebbe, ecco, vengo soltanto a proposito delle istituzioni, io vengo soltanto a un punto che mi preme in questo momento, e forse anche, e questa è l'occasione anche per, come dire, lanciare anche un piccolo appello, cioè questo percorso di Cuore di Pietra nel paese, che può essere visitato da tutti, che può essere anche per il comune, per la regione stessa Emilia Romagna, un percorso da valorizzare, da curare, ha bisogno di manutenzione, perché finora Questa manutenzione è sempre stata fatta come gesto di grande generosità da parte degli artisti stessi che hanno collaborato e partecipato, e da me che, come un cane pastore, andava controllando e continua a controllare quando delle cose vengono, perché è inevitabile, cioè l'arte negli spazi pubblici, quando non è monumentale, quindi quando non è soltanto marmo, bronzo, eccetera, è passibile all'usura del tempo. E ho preso un po' di appunti, in particolare per la mia sensibilità sono anche interessata all'aspetto più effimero, se vogliamo, poi magari ne discuteremo poi anche con la performer Mona Lisa Tina, che fra l'altro potrebbe anche esserci utile per fare uno scatto ulteriore rispetto anche ai temi e agli ospiti che abbiamo qui attorno al nostro tavolo, cominciando con un contributo sonoro. Che dici, Stefano? Agevoliamo il filmato. Storie, stratificazioni culturali, persone, biografie, amore, sacrificio. Artisti, quindi di giovani promesse dell'arte, cercano di mettere in relazione il proprio corpo con la struttura architettonica. Elenco delle prime attività lavorative di Pianoro nel dopoguerra, in baracche metalliche. Tomba Gianfranco e Nicoli William, negozio fontaniere e abitazione. Nascetti Albertina, caffè con biliardino. Raggi Dante, cooperativa edilizia, bottega, falegname e magazzino. Tedeschi Rosa, osteria e abitazione. Comune di Pianoro, magazzino comunale. Cocchi Alfonso, bottega Fabbro. Faenza Giuseppe, osteria. Tozzi Riccardo, bottega meccanico magazzino. Barbieri Prospero, abitazione colonica. Mattei Augusto, magazzino agricolo. Dalmastri Carlo, abitazione drogheria. Bullone. Organo di collegamento formato da uno spillo metallico su cui si avvita un dado per stringere l'accoppiamento. Bullone, strumento musicale a percussione utilizzato da tribù indigene per comunicare. Rame, tong, 一种元素, 被广泛应用于医药用具饰品当中, 中国商周时期的青铜艺术, 举世闻名. Regolo, asticciola sezione quadrata o rettangolare che si usa per tirare linee diritte. Regolo, re dei golosi, popolo che ama il sapore delle domande e pecca di curiosità. Allora, eccoci rientrati, questo è sempre lo speciale Coxo Spaziale dagli spazi di Setup. Mona Lisa Tina, artista, performer, protagonista di questo progetto che vede coinvolta arte pubblica, arte cinematografica. Ci vuoi raccontare un po' che cosa abbiamo appena ascoltato? Naturalmente sì, intanto buon pomeriggio e grazie dell'invito. Volevo innanzitutto segnalare il fatto che in realtà ho collaborato con Emilio Romano già in un'altra esperienza precedente nel 2011 attraverso un progetto dal titolo Connessioni e di conseguenza il mio intervento che poi è stato proposto all'interno del film documentario Lavoro ad Arte ha visto, come dire, la mia partecipazione su due piani di intervento. Il primo intervento, quindi ad un primo livello, mi ha visto, come dire, reinterpretare attraverso il linguaggio del corpo, che è sostanzialmente il linguaggio che mi appartiene in maniera profonda da tutta la mia indagine estetica e artistica e quindi attraverso un'indagine molto profonda sul tema dell'identità, e in ogni caso mi ha visto come dire selezionare sotto lo sguardo attento di Mili una serie di fabbriche e di luoghi dismessi e ancora attivi nella possibilità di reinterpretare attraverso il corpo queste memorie. Queste memorie che in realtà non si tratta appunto di memorie, come dire, nostalgiche di un luogo, ma la possibilità di contribuire con il mio intervento a valorizzare forse una serie di luoghi molto significativi per la realtà e per il centro urbano di Pianoro. Quindi da un lato sono stata, come dire, partecipe a una riflessione attraverso il corpo in una dimensione più intima e poetica di una serie di luoghi. Dall'altro, e secondo me è stata anche una dimensione più interessante, la possibilità di realizzare un'azione performativa corale e collettiva all'interno del workshop dalla rappresentazione all'azione del corso di Mili Romano di antropologia culturale all'Accademia dei Belle Arti con 16 studenti che mi piace definirli le nuove premesse dell'arte. Di conseguenza il lavoro che abbiamo fatto... E non promesse, sono premesse. Premesse dell'arte e forse anche promesse. È voluto, forse è stato un lapsus freudiano, ma in ogni caso premesse molto più affascinante. Davvero? Molto più affascinante. Questo è live, no? E quindi appartiene un po' al linguaggio estetico performativo. Ma ritornando al secondo intervento, al secondo livello di collaborazione appunto con gli studenti, è stato molto interessante per me cercare di realizzare attraverso un linguaggio appunto molto diretto e profondo con loro la possibilità di selezionare una serie di interventi artistici che erano stati prodotti nell'arco di 10 anni di lavoro Cuore di Pietra, quindi dell'indagine molto profonda di Mili sul territorio pianorese, cercando appunto, come dicevo prima, di fare una selezione. Compito assolutamente difficile perché naturalmente non si trattava di fare una selezione sulla qualità degli interventi artistici, ma di cercare di capire appunto proprio perché all'interno di questi 10 anni di lavoro sono state proposte anche azioni performative, e la peculiarità delle azioni performative è la natura dell'etereo, nel senso che l'azione si svolge in quel momento e si conclude in quel momento. In alcuni casi l'artista decide di lasciare delle tracce fotografiche o video, in altri casi no. E quindi è stato difficile comunque cercare di reinterpretare, visto che il luogo era già molto significativo e denso di contenuti, non solo artistici, ma anche di memorie delle persone che ci hanno lavorato, che ci vivono e che continuano a farlo. In ogni caso, ho realizzato, insieme appunto alla collaborazione di Mili e degli studenti, questo progetto intitolato La trama delle memorie. E quindi, ad un primo livello, si vedrà poi nel film anche oggi, ricordo alle 18 alla Cineteca Lumière, la mia partecipazione come una sorta di figura magica che cerca di tessere un filo narrativo, quindi narrazione, in questi 50 minuti di lavoro appunto ad arte. Per cui appaio e scompaio come una sorta di figura magica. E ad un secondo livello un intervento più profondo e di collaborazione appunto con gli studenti, dove gli studenti stessi hanno scelto insieme a me alcuni luoghi e alcuni interventi artistici già proposti nell'arco di 10 anni da reinterpretare attraverso il corpo e attraverso il linguaggio verbale. E in effetti abbiamo preso spunto anche da alcuni brevi testi e riflessioni del libro di Roberto Vitali, e gli studenti stessi hanno cercato in qualche modo di esprimere questa riflessione citando le storie di alcuni operai che hanno lavorato in maniera molto diretta e personale a pianoro. Tra i tanti temi e le tante anime che hanno dato vita a questo progetto, c'è appunto, come hai accennato tu ora, c'è anche un ruolo del lavoro. Cioè, non si parla principalmente di, in qualche maniera, di riappropriarsi dello spazio, di condividere lo spazio in una maniera partecipata, in una maniera creativa. Sì. Il tema del lavoro, che oggi è un tema tristemente attuale, sulla bocca un po' di tutti, lo sento come colonna anche di questo progetto, lo sento come una voce che cerca di uscire da questo coro, su questa dialettica sul lavoro, lo sento come una voce che cerca di dare una versione diversa, cerca di dare un punto di vista diverso, una prospettiva diversa anche per il futuro. È solo una mia impressione o magari ho detto qualcosa di vero? No, non è una tua impressione, hai detto qualcosa di assolutamente profondo e reale, ma mi piacerebbe che fosse Milly Romano a rispondere alla tua domanda, poi magari se ci sono dei contenuti da approfondire sul piano più estetico e artistico potrei aggiungere il mio contributo. Rispondo. Rispondo riprendendo un po' il discorso interrotto prima, cioè il piano metodologico, cioè quello che noi abbiamo con Cuore di Pietra cercato di mettere in pratica anche faticosamente è una concezione, che ho sempre anche richiesto, diciamo, agli artisti che hanno collaborato nel corso degli anni, è una disponibilità di tempo in un lavoro nello spazio e nel tentativo di cancellare, come vi dicevo prima, quei confini e quelle separazioni che ci sono quasi sempre, quindi fra il pubblico, il privato, la vita intima della casa e la strada. Anche in questo caso, quindi Cuore di Pietra si è sempre, diciamo, posto nei confronti dello spazio in questa maniera, cercando di attivare una partecipazione che fosse soprattutto affettiva, di condivisione di un tempo anche lungo. E quindi mi rendo conto che ha sempre sollecitato qualcosa anche di molto difficile e nel porsi nei confronti del mondo del lavoro ha cercato di fare la stessa cosa metodologicamente, cioè l'obiettivo era quello: nelle nostre città e quindi a Pianoro ma in tutti i paesi noi abbiamo queste zone industriali, artigianali, produttive che sono quasi sempre aree urbanistiche separate dal resto del paese, no? Cioè dove si vive una giornata intera all'interno dei grandi capannoni, ma noi dei capannoni non sappiamo niente ciò che accade dentro e nessuno mai va a visitare quelle zone perché sono staccate dal paese da sottili ma enormi, pesantissimi muri, invisibili muri. Benissimo, l'idea invece di Cuore di Pietra è stata proprio quella di allargare l'area di azione, traboccare, cioè andare un po' ad invadere questi spazi cercando di penetrare, cioè di entrare, di cancellare quel confine e quindi entrare nei capannoni industriali, entrare nelle fabbriche e cercare il più possibile di collaborare, sia con cercare la collaborazione anche nell'orario di lavoro. E il rapporto fra l'arte e il lavoro quasi sempre è legato a due elementi. Da una parte c'è la sponsorizzazione dei progetti, che non significa quasi mai condivisione, perché quasi sempre le imprese che finanziano generosamente, dobbiamo sempre ringraziarli per questo e li ringrazieremo sempre, ma molte volte si fermano al logo messo su un catalogo oppure su un manifesto, no? E badano alla manifestazione, quindi all'immagine eclatante. E la seconda cosa, l'impresa chiama l'arte quando deve fare un monumento a se stessa. Ecco, in questo caso non era così. L'idea è poi che poi ha portato anche al film e che il film, diciamo, accompagna molto bene con questo sguardo anche molto penetrante e intenso, è proprio questa. Cioè, in questo caso l'arte entra in questi spazi in maniera molto sollecitando un dialogo affettuoso e sollecitando anche delle memorie, sollecitando un'azione, no? Che cambi qualcosa e lasciando poi in questo territorio quasi sempre anonimo, no? Freddo, distante, degli interventi certe volte visibilissimi, certe altre volte invisibili, ma degli interventi che diventano narrazione, cioè entrano nella memoria collettiva di coloro che hanno partecipato, purtroppo, perché chi non ha partecipato, niente. Sulla scia allora del dialogo affettuoso, che è una politica che voglio sposare a pieno e che continuerò a diffondere, prima di addentrarci allora nell'ultima parte di questo speciale Coxo Spaziale, andando a parlare nello specifico del film con Lisa Mereghetti qui con noi, andiamo a introdurre il discorso sul film con un contributo sonoro. Quando devi lottare per sopravvivere, fa che il tuo nemico ne veda sette. Uno via dal lavoro la domenica, uno che il lavoro lo comincia il lunedì, uno che insegna senza essere pagato, uno che ha imparato a nuotare affogando, uno che è il seme di una foresta, un altro che da avi selvaggi è protetto. Ma tutti i loro trucchi non bastano. Tu stesso devi essere il settimo. Lavoro ad arte. Lavoro ad arte è un film che racconta questa esperienza curata insieme a Cuore di Pietra, prodotto da Ethnos Film con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Volevo chiederti, Elisa Mereghetti, che è qui con noi, buon pomeriggio, co-regista del film. Buon pomeriggio, Elisa. Ciao, ciao. Volevo chiederti, questo film, questo progetto, continua in qualche maniera un percorso di Ethnos Film o si tratta di un caso unico del vostro lavoro? Sicuramente fa parte di un percorso, però nello stesso tempo è un progetto, non dico anomalo, però particolare per il nostro percorso, perché noi siamo documentaristi da molti anni, da decenni, abbiamo girato tutto il mondo, il nostro lavoro si è caratterizzato molto per un taglio sociale, il sud del mondo, le donne africane, lo sviluppo, cooperazione allo sviluppo. Abbiamo trattato moltissimo questo genere di tematiche, l'ambiente, tematiche ecologiche. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto anche sul tema del rapporto fra territorio e memoria, con una trilogia di documentari girati nell'Appennino reggiano, andando a scavare proprio la sedimentazione della memoria nel paesaggio. Quindi è stato anche quello un pochino un aspetto del nostro lavoro che andava in qualche modo, che si ricollega un po' anche ai temi trattati in Lavoro ad Arte. Qui c'è una storia particolare, in quanto il mio collega co-regista Marco Menza vive a Pianoro, conosce da anni l'opera di Mili e tutto il progetto di Cuore di Pietra, l'ha vissuto in prima persona da cittadino pianorese e quindi era particolarmente coinvolto, particolarmente attento a questo progetto. Quando c'è stata, abbiamo anche collaborato con Mili in passato su un altro lavoro di documentazione del progetto per 7 anni di chiusura dei primi 7 anni del progetto Cuore di Pietra. Però quando si è presentata, diciamo, la declinazione del progetto nelle fabbriche, cioè quindi il percorso degli artisti verso la zona industriale con tutte le varie sfaccettature di questi interventi artistici, abbiamo pensato che fosse un'occasione molto interessante per creare un nuovo progetto di documentario. Quindi per noi c'è stato anche un elemento poi di sperimentazione, di linguaggi, tecniche, fotografia, montaggio, narrazione. È stato un lavoro molto molto intenso. Ecco, infatti proprio sulla maniera in cui vi siete mossi verso queste molteplici direzioni, ero curioso di sapere, essendo un progetto, come abbiamo visto, dalle tante anime, e soprattutto essendo un progetto che si fa forza di quei diversi canali che il mondo della creatività, il mondo dell'arte, il mondo della performance riesce a mettere a disposizione. Il cinema è un'arte che di per sé è composta, se vogliamo, da tutte queste arti, perché racchiude in sé elementi fotografici, elementi pittorici, elementi performativi, attraverso, appunto, come dicevi tu, una narrazione. Volevo chiederti come vi siete approcciati nel raccontare questa esperienza, questo progetto, dal momento che è stato un progetto che praticamente si è nutrito di collaborazioni, di cooperazioni, di reciproci sostegni da autori, da documentaristi, da cineasti, qual è stato allora il vostro contributo su questo progetto? Sì, è stato un percorso molto molto interessante che abbiamo condiviso innanzitutto con Mili Romano e con Nando Briamonte, con cui abbiamo lavorato molto sia sulla progettazione sia sui testi e anche proprio un po' sulla confezione del lavoro. Abbiamo condiviso molto anche con gli artisti, nel senso che loro stessi si sono raccontati in audio, sonoramente, hanno registrato dei brani per spiegare un pochino il loro lavoro, o comunque per inquadrarlo in maniera suggestiva. E questo, quindi, c'è stato questo elemento partecipativo. Poi c'è stato un lavoro proprio di ricerca su come raccontare questa cosa, e non è stato per niente facile, perché era un lavoro molto complesso che prendeva spunto da un progetto decennale pieno di cose da dire. Quindi innanzitutto un lavoro di sintesi, cioè quali sono gli elementi del progetto essenziali per poter far capire allo spettatore qualcosa, e poi anche un lavoro di interpretazione di questi interventi artistici per valorizzare il momento dell'incontro, fondamentalmente, cioè l'incontro fra arte e lavoro, fra questi artisti per lo più giovani e gli operai o gli imprenditori o gente che passa le loro giornate intere dentro il capannone, erano veramente momenti molto molto forti da un certo punto di vista. Come renderli al meglio? Come inquadrarli? Allora lì c'è stata anche una scelta fotografica da parte di Marco Mensa, che ha utilizzato un unico obiettivo per tutto il film, che era un obiettivo il 50, che permetteva di creare la sensazione di essere presenti lì, cioè non c'è stata una ricerca, cioè è una ricerca fotografica che ti porta a valorizzare proprio l'attimo, la presenza dello spettatore, dando questa suggestione. Poi nel montaggio, naturalmente, abbiamo valorizzato i singoli interventi degli artisti, quindi dando spazio a ciascuno di loro, e poi anche la colonna sonora, che è abbastanza particolare, direi. Molto interessante il discorso sulla scelta di un unico obiettivo, il 50, che è un obiettivo che solitamente si usa per i ritratti, per i primi piani, e quindi anche una scelta che trovo coerente per raccontare questo tipo di esperienza. E poi certo, sulla colonna sonora abbiamo già avuto modo di ascoltare il contributo sonoro di Mona Lisa, ma c'è stato un lavoro più strutturato sulla colonna sonora, che ha visto anche il coinvolgimento della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio d'Uni di Matera, e si avvale anche della collaborazione di due importanti musicisti, che lascio a te, Elisa, l'onore di introdurre. Sì, esatto, ci sono due aspetti della colonna sonora. Uno è l'intervento dei fratelli Mancuso, sono musicisti siciliani conosciuti a livello internazionale, che prendono spunto dalla tradizione siciliana, che è loro, fa parte del loro DNA, ma anche, soprattutto in questo caso molto pertinente col tema del documentario, dalla loro esperienza di emigranti. Da giovani sono andati a lavorare nelle fabbriche in Inghilterra, dalla Sicilia sono emigrati, e quindi nel documentario raccontano questa storia e hanno creato un brano che racchiude un po', in maniera molto creativa, molto libera ovviamente, racchiude alcune sonorità che secondo loro si richiamano al lavoro nelle fabbriche, e le rielaborano in un contributo sonoro particolare, che poi abbiamo reso visivamente anche in maniera molto sognante. Diciamo che l'abbiamo preso come spunto per il finale del film, che non vi racconto perché spero, certo, che lo vedrete. Certo, assolutamente. Invece il Conservatorio di Matera ha appunto un corso di musica elettronica applicata condotto dal maestro Festa, con cui avevamo già collaborato come Etnos in passato su altri documentari, e insieme anche con Mili e con Nando, sentendo alcuni brani di questi studenti del Conservatorio, ma ci sono poi anche brani del maestro Festa all'interno del film, abbiamo pensato che avessero proprio la sonorità perfetta, perché è musica elettronica sintetizzata, e è musica che si sposa perfettamente con le sonorità delle fabbriche, ma anche con la leggerezza dei gesti degli artisti di cui parlavamo prima. A proposito della globalità di questi temi affrontati, perché appunto qualcuno la chiama gentrificazione, qualcun altro la chiama li chiama espropri forzati, qualcun altro lo chiama land piracy, però è interessante vedere come queste dinamiche sono dinamiche reali, attuali, a Pianoro come a Londra, come a Rio de Janeiro. Allora Elisa, quale sarà la vita futura di questo film? Dove sarà proiettato, oltre a queste oltre a queste presentazioni, e soprattutto dove saresti felice che andasse? Qual è un tuo desiderio? Bellissima domanda. Guarda, noi adesso lavoreremo molto sulla promozione del film e stiamo facendo con queste proiezioni anche dei test per capire se viene recepito e in che modo da pubblici diversi. Per ora è stato recepito ugualmente positivamente sia da un pubblico, diciamo, tra virgolette, di addetti ai lavori, che dai diretti interessati di Pianoro, dai cittadini pianoresi, quindi l'hanno riconosciuto sia gli uni che gli altri, quindi forse c'è un linguaggio, diciamo, accessibile a pubblici diversi. Quindi sicuramente lavoreremo sulla promozione del film nei festival nazionali e internazionali, nelle ambienti dell'arte, nei musei, eccetera, eccetera, ma anche sarebbe bellissimo poter prevedere un ciclo di proiezioni all'interno di alcuni luoghi del lavoro, alcune fabbriche a Pianoro, ma non solo, cioè anche altri luoghi dove potrebbe essere molto interessante sia a livello anche visivo, ma poi soprattutto per la partecipazione dei lavoratori, proprio per andare a stimolare ancora di più le potenzialità di questo incontro. E io poi qui sul tema della partecipazione avrei tante domande da fare, infatti feedback possibile, però purtroppo il tempo è tiranno e siamo arrivati alla quinta puntata di Coxo Spaziale Speciale Setup, sta volgendo al termine, perciò prima di salutarci di nuovo con ordine e voi ragazze siete state veramente fortunate, perché questa è la puntata meno coxica che ci sia stata qui ma più radiofonica, grazie alla presenza di Stefano Migliore, ve la siete cavata senza mega galatticità in eccesso, a parte quella che avete portato voi con i vostri contenuti. Quindi un ultimo contributo da questo lavoro ad arte e poi ritorniamo con i saluti. La prima cosa che ho percepito è stato l'odore, entrando nei capannoni. Odore di ferro, plastica, dei materiali in lavorazione. Il corpo come spazio umano in relazione allo spazio industriale e allo spazio urbano. Di ogni persona che incontro, immagino di sentire non la sua voce, immagino di incontrare il suo sguardo e di sentire il suo cuore. I suoni della fabbrica erano dei suoni che, con delle macchine che producevano più o meno sempre lo stesso ritmo, questo rumore sordo dei metalli che si fondevano e dello spalare il carbone per alimentare gli altiforni. Il lavoro del momento è una serie di istantanee a china realizzate attraversando l'area industriale e fermandomi tra macchinari, imprenditori e operai. L'importanza del nostro tempo è una riflessione sulla ricerca di un tempo più intimo, personale, in contrasto con quelli che sono i tempi frenetici della produzione industriale. Ai noi, Stefano, ricomincia la tristezza. Come si fa l'ultima slot con le nostre ospiti? Sai, è già chiusa questa puntata. Io ne avrei avuto un sacco di cose da chiedere a tutte loro. E gliele hai chieste tutte tu. Cioè, quelle che non le ho chieste. Fedra, cara Fedra. Coraggio, non temere. Non tutto è finito, chiude solo una piccola parte di questa bellissima esperienza. Poi ci saranno tanti altri super mega galattici ospiti coxici e poi io me la riascolterò ancora e ancora per risentire le voci di queste nostre splendide ospiti. E facciamo... Io vorrei partecipare a un seminario del Coxo Spaziale per imparare anche la vostra lingua, immagino che provvederemo, non si preoccupi, impegnerò, signor migliore. E noi cosa facciamo? Facciamo un giro di saluti e magari andiamo a tirare fuori qualche altra cosa che era rimasta indietro, se non sbaglio. Ma sempre più che volentieri, anche per approfittare di questi ultimi minuti insieme, e anche perché è stato un contributo talmente ricco che ha bisogno di un suo epilogo riassuntivo. Quindi hanno fatto questa trasmissione Mona Lisa Tina, che è qui con noi, che artista e performer, che è, diciamo, il trade union delle altre nostre due ospiti, Mili Romano, Cuore di Pietra, Elisa Mereghetti, Ethnos Film. Mona Lisa, ci hai raccontato della tua esperienza, del tuo sì. contributo su questo progetto, ma a microfoni spenti ci dicevi che avresti voluto, ci tenevi, grazie allo strapotere mediatico concessoci dal Coxo Spaziale hai questa possibilità, ci tenevi a aggiungere qualcosa per quello che riguardava l'aspetto cooperativo e collaborativo di questo progetto. Sì, esatto. Vorrei concludere con una riflessione coxica, si dice così? Ottimo, perfetto? Ottimo. Ok. Sul tema dell'incontro, no? Abbiamo parlato di incontro, di interazione, di abitanti, artisti, fabbriche. Ebbene, allora io credo che il mio intervento, i miei due interventi, non sarebbero stati possibili se Mili Romano non fosse stato appunto in grado di realizzare un'interazione così profonda con gli abitanti e con appunto gli operai delle fabbriche, in uno scambio di reciprocità profonda di comunicazione. E in questo senso volevo proprio, come dire, apportare alla conclusione di questo incontro e questo confronto con voi attraverso questa riflessione. Cioè, non è possibile avviare dei processi trasformativi come lo è stato l'arte in questo senso, se prima non c'è da parte di chi offre uno spazio d'ascolto una dimensione davvero profonda di interazione con l'altro. Se mi permetto di aggiungere qualcosa anch'io in merito a lavoro ad arte, che è tutto sommato una locuzione che uso spesso quando si tratta di parlare di estetica contemporanea, che secondo me effettivamente uno dei ruoli che è stato scippato all'arte è stato proprio quello della sua utilità e ricaduta nella vita vissuta, e progetti di questo tipo secondo me sono veramente utili, sono quelli di cui ce ne vorrebbero di più, quindi... Sì, io proprio dal mio punto di vista, proprio come partecipante a questo progetto, ho sentito una dimensione molto calda di accoglienza, ma ripeto, questo è stato possibile perché c'è stato un lavoro di 10 anni di tessiture, di relazioni, da parte naturalmente di Mili... Di ritessiture, e non è... continue, non è appunto un caso il fatto che io abbia intitolato il mio intervento La trama delle memorie, e in ogni caso la mia figura appare un po' come un filo di narrazione sia all'inizio che alla fine, in alcuni punti del film documentario, ma per sottolineare appunto questa riflessione, e quindi un incontro profondo e una relazione forte che Mili ha appunto, come dire, tramato, si può dire, nel senso di tessere trame, esatto. Come anche tradire, si può usare anche non soltanto da un punto di vista negativo, ma anche come traduzione. Esatto, sono cose. Esatto. Fedra, io, se non si accavallano con i giorni del seminario della lingua coxica, vorrei partecipare sicuramente anche a un prossimo seminario di Mona Lisa Tina. Io vi aspetto comunque il 19 febbraio all'interno del ciclo di incontri sul contemporaneo all'Università di Bologna, Aula 2, Piazzetta Morandi 2, dalle ore 16 in poi. E io ti invito già a ricordarcelo sul Coxo Spaziale in FM con una telefonica a ridosso dell'appuntamento. Perfetto. Per le menzioni del Coxo. Benissimo, ci sarò, lo farò. Allora, grazie Mona Lisa Tina per questi approfondimenti da dentro questo cuore di pietra e in seno a questo lavoro ad arte. Grazie infinite Mili Romano per essere stata con noi. Grazie a voi. coxicamente. Meraviglioso. Molto coxicamente. Milly, ma il prossimo progetto invece? In questo momento c'è una piccola pausa. Ah, giustamente. Però Cuore di Pietra ci sarà ancora? Non lo so, sinceramente. No, Cuore di Pietra esiste, ma adesso siamo in pausa, ma quello come vi dicevo prima, la mia attenzione, le mie energie vorrebbero essere dedicate alla manutenzione di tutto ciò che è stato fatto, perché uno dei temi fondamentali dell'arte pubblica contemporanea è proprio quello, perché è molto facile fare le azioni di arte pubblica o anche gli interventi di arte pubblica, ma la cura e la manutenzione del tempo è la cosa più difficile. E allora, se perché passa attraverso il tema di una responsabilità collettiva e comunitaria. E allora, se possibile, invito anche te sulle frequenze 103.1 in trasmissione al Coxo per fare un focus su questo tema che è estremamente pregnante. Con molto piacere, guarda, con molto piacere, perché quella è la mia battaglia. Certe volte demoralizzante al massimo, ma mi avete coxicamente esaltato oggi, quindi ormai è contagiosa, auguro, questa cosa del Coxo. Mi auguro, sì, è contagiosa. Geniale, assolutamente geniale. Ringraziamo, last but not least, Elisa Mereghetti, Etnosfilm, ti ringraziamo ancora per averci dedicato il tuo tempo e ci auguriamo. Grazie a voi. Ci auguriamo ovviamente una lunga vita per il film. Anche i film hanno bisogno di manutenzione. Assolutamente. La chiamano distribuzione, ma ma anche poi dopo un certo numero di anni anche di un po' di manutenzione, quello qualcuno lo chiama il cinema ritrovato. Etnosfilm ha progetti in cantiere, è proprio il caso di dire. Sì, attualmente ne abbiamo... si può dire qualcosa? O... Sì, attualmente stiamo cercando di completare un altro lavoro che è il ritratto di un grande scenografo che ha lavorato con registi del calibro di Ronconi, Monicelli, Garinei Giovannini, musical, prosa, opera lirica, si chiama Uberto Bertacca e stiamo facendo il suo ritratto. Quindi abbiamo intervistato già un sacco di persone interessanti. E quindi non resta che rinnovare anche ad Etnosfilm l'invito al Coxo, sperando magari che Stefano Migliore mi venga a trovare come co-conduttore anche in frequenza. Io, guarda, più che volentieri, credo di dover sostenere però il famoso seminario di lingua coxica. Cioè sono mortificato per questa lingua morta che uso, l'italiano. No, guarda, ti riesci a prestare, sei molto, infatti sei radiofonicamente perfetto. Grazie a voi, eh. Grazie a voi, viva l'arte, viva il cinema, viva il Coxo, viva Fedra. Viva Lavoro ad Arte, viva Cuore di Pietra e tutti gli artisti che coinvolge, compresa Mona Lisa Tina. Grazie. Ciao! Setta speciale, corso spaziale, speciale, eccezionale, se tu sei bravo.